del letto. Sì. Stavamo parlando dei quattro incommensurabili dei Brahma Vihara, cioè i quattro regni di Brahma, che sono Karuna, Metta, Mudita e vabbè, Mudita e Upekkha. E Upekkha, l'equanimità. Allora, dicevo, l'equanimità è praticata fondamentalmente insieme alla presenza, alla consapevolezza. È considerato una qualità intrinseca della consapevolezza. Perché è abbastanza facile da capire. Nel momento in cui io pratico la presenza, che cosa faccio? Io so, entro in contatto con l'emozione che c'è, con lo stato d'animo che c'è, con quello che c'è, ma siccome ne sono testimone, non sono identificato. Se mi perdo il testimone, se non lo sto osservando, se non sono attento, vuol dire che sono identificato con quello stato. Nel momento in cui ne sono testimone, non essere identificato è l'equanimità. L'equanimità c'è quando non sei identificato. Non può esserci equanimità dove c'è identificazione. E esattamente la parola equanimità è l'opposto dell'identificazione. Capisci? Quindi è l'antidoto dell'identificazione. L'equanimità è l'antidoto dell'identificazione. L'identificazione porta... L'identificazione significa che se io ho uno stato positivo, sono totalmente identificato con quello, non sono testimone anche di quello. Se c'è uno stato negativo, sono totalmente identificato con quello. Mi credo quello, quello vuol dire che sono identificato. Mi identifico vuol dire io sono quello stato. No? Nel momento in cui io penso sono quello stato, perché sono totalmente ipnotizzato da quello stato di coscienza, non sono equanime. Nel momento in cui lo testimonio, ne sono consapevole, proprio perché lo testimonio sono in contatto, perché la testimonianza non è non sono questo, c'è questo, c'è anche questo, ci entro dentro, però ne sono testimone. Essendone testimone, non sono identificato. L'essere testimone ha questo potere di disidentificarmi, quindi di essere equanime. Per quanto più sono nel centro di consapevolezza, tanto più sono equanime. Quindi l'equanimità in realtà non si può sviluppare senza la pratica della presenza. Poi in questi Brahma Vihara viene indicato anche un metodo, che è quello appunto della pratica dei Brahma Vihara, della ripetizione di una formula, di una frase che ciascuno poi si sceglie più adeguata a sé, che aiuta a sviluppare questa cosa. Per dire, nella pratica dell'equanimità si sviluppa la cosa, io non posso prendermi la responsabilità del destino di tutti quanti, voglio dire degli altri, tu hai il tuo destino, raccogli il risultato delle tue azioni, voglio dire, non posso costringerti a fare, per esempio prima si parlava di Francesco, voglio dire, non posso forzarlo a... va rispettato. L'equanimità è questo, che tu rispetti profondamente il destino di un altro, no? Rendi onore alle sue scelte, alla sua libertà anche di sbagliare, di fare anche se c'è un affetto, mi sei caro, ma io non posso, no? Interferire nelle tue scelte. Posso però confrontare, posso dargli esatto, faccio tutto quello che posso senza pretese, e questo sviluppa un atteggiamento equanime nei confronti. Cioè non c'è spinta, non c'è aspettativa, non c'è pressione, non c'è dipendenza rispetto, quindi sei equanime. Sei più disidentificato, non ti lasci totalmente fagocitare dal coinvolgimento con quello che l'altro sta facendo. No? Questo vuol dire. Questo è importantissimo. E quindi e questo viene considerato, Thich Nhat Hanh è bellissimo quando parla di questo aspetto. Ci sono dei libri di Thich Nhat Hanh, sono dei gioielli, quando parla proprio dei Brahma Vihara, e lui dice: noi fraintendiamo la compassione, perché fondamentalmente il modo in cui noi intendiamo la compassione non prevede l'aspetto dell'equanimità. Noi, quindi, la compassione per noi diventa commiserazione, diventa una forma di coinvolgimento, cordoglio. Noi siamo totalmente, pensiamo che essere empatici, compassionevoli con l'altro vuol dire identificarci con la sua sofferenza. Questa non è la compassione e non aiuta la persona. Non aiuta, no. Perché la persona si sente confermata nel fatto che lui è veramente un povero disgraziato che sta passando. Mentre tu sei compassionevole nel modo giusto quando nella compassione c'è pace, c'è presenza, c'è equanimità. Per cui tu non identifichi l'altro con quello stato negativo che sta vivendo. Siccome non lo identifichi, lo aiuti in quel momento, sei empatico con la sua sofferenza, ma nello stesso tempo il messaggio che traspare dalla tua empatia è: ma tu non sei questo. Ricordati che questo è uno stato passeggero. È una condizione che stai vivendo, ma non è l'ultima realtà. È Nietzsche, no? Insomma. È a Nietzsche, esatto. Quindi ti porta a Dukkha e conseguenza. Ti porta a Dukkha perché ti ci identifichi. Identifichi. Potresti in questo momento esserne già fuori. C'è la sofferenza, ma non ne sei identificato, sei già fuori, praticamente. Cioè, pace nella sofferenza. Certo. E lo puoi fare già ora. Subito. Da adesso, no? Sì. Capisci? Quindi, le altre tre, invece, Metta, Mudita e Karuna, sì. E questi tre, a differenza di Upekkha, che è più difficile praticare direttamente se non c'è una solida pratica di presenza, gli altri tre invece possono essere praticati in modo autonomo e vanno sviluppati proprio come una pratica molto precisa che viene codificata, diciamo, no? Per cui o dedica dei minuti della giornata a sviluppare la benevolenza, la gioia compartecipe, come altri aspetti che sono meno citati, si citano questi tre, ma per esempio la generosità, la gratitudine, sono tutti aspetti che fanno parte, che poi se tu le guardi sono tutte le qualità dell'amore, perché l'amore è fatta di tutte queste qualità insieme. La parola amore, quando non si intende il desiderio, l'attrazione, voglio dire, è questo, è gentilezza, è benedizione, è augurio, è rispetto, è simpatia, e tutte queste cose messe insieme, voglio dire, che fanno parte di Metta, Mudita e Karuna, che sono tre parole sintetiche per descrivere tutte queste qualità insieme, diciamo, che sono le qualità del cuore, no? E che possono essere sviluppate con meditazione a parte, che non sono la pratica della consapevolezza, sono proprio la pratica del aprire il cuore e del irradiare positività, che è l'intuizione poi dopo del fatto che in fondo siamo uno e che quindi più tu irradi l'altro e più irradi te stesso. Allo stesso momento, nel momento in cui tu punti il dito nei confronti dell'altro, lo stai puntando nei confronti di te e aumenti la tua autosvalutazione. E questo è esattamente l'opposto, impari a fare esattamente il contrario, no? Cioè, queste sono le cose che dovremmo riuscire a portare in tutte le scuole, dappertutto. Dobbiamo riuscirci, perché ci deve delle scuole proprio da bambini. Portare soprattutto nella psicologia consapevolezza. Fare che la psicologia, con tutta la sua conoscenza che adesso ha del mondo dell'ombra, della dimensione del corpo, eccetera, eccetera, abbia anche questa consapevolezza delle risorse che abbiamo per poter trasformare questo. E del fatto che se non coltiviamo queste risorse, restiamo a remenarci sempre su un piano dove alla fine diventa come quella famosa camicia quando si lava la camicia. Si fa tu, la bolla, cioè. La bolla esce dall'altra, premi da una parte, esce dall'altra. Non c'è soluzione, se non potenzi la risorsa, non c'è soluzione. E questo è il. Penso che adesso possiamo anche spegnere. Sì, possiamo.